Capitolo 8. Nonostante Udolfo e la sarta, comunque, il gruppo di Pulteney Street raggiunse le Upper Rooms in orario. I Thorpe e James Morland li precedettero di soli 2 minuti, e dopo che Isabella ebbe eseguito il suo solito cerimoniale, precipitandosi incontro all'amica con il più affettuoso dei sorrisi, lodando la linea del suo abito e proclamando di invidiare i suoi riccioli, si presero a braccetto e seguirono i propri chaperon nella sala da ballo, bisbigliandosi all'orecchio ogni nuovo pensiero e comunicandosi molte idee con strette di mano e sorrisi affettuosi. Pochi minuti dopo che ebbero preso posto, le danze cominciarono e James, che già da prima aveva preso accordi per il ballo, come la sorella, incominciò a insistere perché Isabella si alzasse, ma John era andato nella sala da gioco per parlare con un amico e niente, dichiarò Isabella, l'avrebbe indotta a unirsi alle altre coppie prima che la sua cara Catherine potesse seguirla. Vi assicuro, disse, che non mi alzerò senza la vostra deliziosa sorella per tutto l'oro del mondo, poiché se lo facessi rimarremmo certamente separate per tutta la sera. Catherine accettò con gratitudine questa cortesia e rimasero quindi insieme per altri 3 minuti. A quel punto Isabella, che fino ad allora aveva chiacchierato con James, che le sedeva vicino, si girò di nuovo verso di lei e bisbigliò: Tesoro mio, temo di doverti lasciare. Tuo fratello è così terribilmente impaziente di cominciare. So che non ti dispiacerà se ti lascio. Vedrai che John sarà di ritorno tra un attimo e mi raggiungerai subito. Catherine, anche se un po' delusa, era troppo buona per opporsi, e dopo che gli altri due si furono alzati, Isabella ebbe solo il tempo di stringere appena la mano dell'amica e dire: Arrivederci, tesoro, prima che si allontanassero in fretta. Dato che anche le altre sorelle Thorpe andarono a ballare, Catherine fu lasciata alla mercé della signora Thorpe e della signora Allen, in mezzo alle quali restò. Non poteva fare a meno di sentirsi contrariata per l'assenza del signor Thorpe, visto che non solo desiderava ballare, ma dato che non a tutti era nota la fondamentale dignità della sua situazione, si trovava a condividere con le decine di giovinette ancora sedute la vergogna costituita dalla mancanza di un cavaliere. Essere in disgrazia agli occhi del mondo, vestire gli abiti dell'infamia, mentre il suo cuore è tutto purezza, le sue azioni tutta innocenza e l'indegno comportamento di un altro, la vera causa della sua degradazione, è una di quelle circostanze che fanno parte della vita di un'eroina e la forza d'animo che lei dimostra serve ad ammantare di dignità il suo carattere. Anche Catherine possedeva forza d'animo, soffrì, ma non una sillaba le sfuggì dalle labbra. Da questo stato di umiliazione poté risollevarsi dopo circa 10 minuti grazie a un sentimento più piacevole destato non dalla vista del signor Thorpe, ma da quella del signor Tilney, ad appena 3 metri dal punto in cui sedevano loro. Pareva che egli si muovesse in quella direzione, ma non li vide e quindi il sorriso e il rossore che la sua improvvisa ricomparsa aveva provocato in Catherine, passarono senza diminuire la sua statura di eroina. Egli sembrava bello e pieno di vita come sempre e parlava con interesse con la giovane dama elegante e graziosa che si appoggiava al suo braccio e che Catherine immediatamente indovinò dovesse essere la sorella, buttando così al vento sconsideratamente una buona opportunità di considerarlo eternamente perduto per lei, in quanto già sposato. Ma guidata solo da quello che era semplice e probabile, non le era mai passato per la mente che il signor Tilney potesse essere sposato. Egli non si era comportato, non aveva parlato come gli uomini sposati ai quali era abituata, non aveva mai nominato una moglie e aveva ammesso invece di avere una sorella. Da queste circostanze nacque l'immediata conclusione che al suo fianco ci fosse la sorella. E quindi, invece di farsi di un pallore mortale e cadere svenuta sul seno della signora Allen, Catherine sedette ben dritta, perfettamente in sé, solo con le guance un po' più colorite del solito. Il signor Tilney e la sua compagna, che continuavano ad avvicinarsi, sia pure lentamente, erano immediatamente preceduti da una signora, una conoscente della signora Thorpe. E poiché questa signora si fermò a parlare, anche loro si fermarono, dato che erano con lei, e Catherine, cogliendo lo sguardo del signor Tilney, ricevette immediatamente da lui un sorriso in segno di riconoscimento. Lei lo ricambiò con piacere e lui, facendosi ancora più vicino, si rivolse sia a lei che alla signora Allen, da cui fu salutato con molta cortesia. «Sono veramente felice di rivedervi, signore. Temevo che aveste lasciato Bath.» Egli la ringraziò per la sua premura e disse che aveva lasciato la cittadina ma solo per una settimana, proprio la mattina dopo aver avuto il piacere di conoscerla. «Bene, signore, e suppongo che non vi dispiaccia di essere ritornato, poiché questo è proprio il posto più adatto ai giovani e in fondo anche a tutti gli altri. Dico sempre al signor Allen, quando si lamenta di esserne stanco, che sono certa che non dovrebbe lamentarsi, poiché è un luogo così piacevole che è molto meglio essere qui piuttosto che a casa in un periodo dell'anno così noioso. Gli dico sempre che è proprio una fortuna che il medico gli abbia prescritto di venire qui. E io spero, signora, che il signor Allen non potrà fare a meno di amare questo luogo dal momento che gli giova. Grazie, signore, non ho dubbi che sarà così. Un nostro vicino, il dottor Skinner, è stato qui l'inverno scorso per curarsi ed è tornato in piena forma. Oh, questa circostanza deve servirvi di grande incoraggiamento. Oh sì, signore, il dottor Skinner e la sua famiglia rimasero qui 3 mesi, quindi dico sempre al signor Allen che non deve avere fretta di andarsene. A questo punto furono interrotti dalla richiesta della signora Thorpe alla signora Allen di spostarsi un po', in modo da far posto alla signora Hughes e alla signorina Tilney, le quali avevano acconsentito a unirsi al loro gruppo. I posti furono quindi ridistribuiti, mentre il signor Tilney continuava a rimanere in piedi davanti a loro. E dopo pochi minuti di riflessione gli chiese a Catherine di ballare con lui. Questo omaggio, per quanto squisito, causò nella giovane un'acuta mortificazione e nel rispondere con un rifiuto espresse il suo dispiacere in quell'occasione con un tono così sincero che se Thorpe, il quale la raggiunse subito dopo, si fosse trovato con lei mezzo minuto prima, avrebbe potuto giudicare quel dispiacere un po' troppo profondo. Il modo disinvolto con cui egli si scusò per averla fatta aspettare non servì certo a farla rassegnare meglio alla circostanza e ai particolari in cui egli si inoltrò informandola dei cavalli e dei cani dell'amico, dal quale si era appena separato, e della proposta di uno scambio di terrier tra di loro, non la interessarono tanto da impedirle di guardare molto spesso verso quella parte della sala dove aveva lasciato il signor Tilney. Aveva anche perso di vista la sua cara Isabella, alla quale avrebbe tanto desiderato mostrare quel signore. Si trovavano in due gruppi diversi e del resto Catherine era divisa da tutta la sua compagnia e lontana dagli amici. A una mortificazione ne seguiva un'altra e da tutto questo trasse quest'utile lezione che andare a un ballo già impegnata non equivale necessariamente ad accrescere la dignità o il divertimento di una giovinetta. Da tale sforzo, per trarre la morale della situazione, fu improvvisamente distolta da un leggero tocco sulla spalla. E girandosi vide proprio dietro di lei la signora Hughes, seguita dalla signorina Tilney. «Vi chiedo scusa, signorina Morland», disse, «se mi prendo questa libertà, ma non riesco a trovare la signorina Thorpe da nessuna parte, e la signora Thorpe mi ha assicurato che non avreste certamente avuto niente in contrario a far sedere accanto a voi questa signorina. La signora Hughes non avrebbe potuto trovare nessuno in tutta la sala più felice di Catherine di renderle questa cortesia. Ci furono le presentazioni tra le due signorine. La signorina Tilney espresse la dovuta gratitudine per la gentilezza dell'altra. La signorina Morland mostrò la delicatezza di un animo veramente generoso, minimizzando il favore che rendeva, e la signora Hughes, soddisfatta di aver sistemato la sua giovane protetta in modo così conveniente, ritornò al suo gruppo. La signorina Tilney aveva un bel personale, un viso grazioso, i modi assai affabili, e benché non possedesse certo la sicurezza aggressiva e lo stile disinvolto della signorina Thorpe, rivelava però un'eleganza più fine. I suoi modi dimostravano buon senso e buona educazione. Non era né timida né cordiale in modo affettato. E sembrava capace di essere giovane, attraente e di trovarsi a un ballo senza voler attirare l'attenzione di ogni uomo che fosse vicino a lei, e senza esprimere sentimenti esagerati di gioia estatica o di angoscia indicibile per ogni minimo avvenimento privo di importanza. Catherine, attratta sia dalla sua persona che dal rapporto che la legava al signor Tilney, Era ansiosa di fare amicizia con lei e faceva del suo meglio per chiacchierare ogni volta che riusciva a farsi venire in mente qualcosa da dire e ogni volta che trovava il coraggio e l'opportunità di dirla. Ma dato che non sempre queste condizioni si verificavano, il cammino verso una rapida amicizia era molto ostacolato e le due giovinette non riuscirono ad andare oltre le prime formalità. Ognuna si informò se all'altra piacesse Bath, se ne ammirasse gli edifici e la campagna intorno, e se disegnasse, cantasse o suonasse e se le piacesse cavalcare. Le danze si erano appena concluse quando Catherine si trovò presa gentilmente sotto braccio dalla sua fedele Isabella, che piena di brio esclamò: «Finalmente ti ho trovata! Tesoro mio, ti cerco da un'ora! Come mai sei venuta da questa parte quando sapevi che io mi trovavo dall'altra? Mi sono sentita tanto, tanto infelice senza di te!» «Mia cara Isabella, ma come potevo raggiungerti? Non riuscivo neppure a vedere dov'eri?» «Oh, è quello che ho continuato a dire a tuo fratello, ma lui non voleva credermi. Andiamo a cercarla, signor Morland», gli dicevo. Ma invano, non si muoveva di un passo. «Non è così, signor Morland?» «Oh, ma voi uomini siete così scandalosamente pigri! Mia cara Catherine, se sapessi quanto l'ho sgridato, non ci crederesti. Sai che io non faccio complimenti con certa gente.» «Guarda quella signorina con l'acconciatura di perline bianche», bisbigliò Catherine allontanando l'amica da James. «È la sorella del signor Tilney? Oh cielo, non dirmelo! Fammela guardare immediatamente! Che ragazza deliziosa! Non ho mai visto nessuna bella come lei!» «Ma dov'è il fratello, il gran conquistatore? È nella sala? Se c'è, indicamelo immediatamente! Muoio dalla voglia di vederlo! Signor Morland, voi non dovete ascoltare, non stiamo parlando di voi!» «Ma cosa sono tutti questi segreti? Che succede?» «Ecco, lo sapevo, voi uomini siete di una curiosità così incontentabile, e poi si dice della curiosità delle donne. Non è niente in confronto, ma state tranquillo che di questa faccenda non saprete proprio nulla. E pensate che sia probabile che io me ne stia tranquillo? Bene, giuro di non aver conosciuto nessuno come voi. Che cosa ve ne importa di sapere di che parliamo? Forse parliamo di voi e allora vi consiglierei di non ascoltare perché potrebbe capitarvi di sentire qualcosa di poco piacevole.» Tra tutte queste chiacchiere, che si protrassero per qualche tempo, sembrò che l'oggetto originario venisse completamente dimenticato. E benché Catherine fosse ben contenta di veder cadere l'argomento per un po', non poté fare a meno di restare un po' interdetta di fronte allo spegnersi improvviso del violento e impaziente desiderio di Isabella di vedere il signor Tilney. Quando l'orchestra incominciò un nuovo ballo, James tentò di portare via la sua bella dama, ma lei resistette. «Vi assicuro, signor Morland», esclamò, «che non farò una cosa del genere per tutto l'oro del mondo. Come potete tormentarmi così? Prova solo a immaginare, mia cara Catherine, cosa vuole da me tuo fratello. Vuole che io balli di nuovo con lui, anche se gli dico che è estremamente sconveniente e contrario a ogni regola. Diventeremo la favola del posto se non cambiamo partner.» «Sul mio onore», disse James, «in questi balli pubblici è una cosa del tutto comune. Sciocchezze, ma come potete parlare in questo modo? Ma quando voi uomini volete averla vinta, non indietreggiate davanti a niente. Mia cara Catherine, aiutami tu, convinci tuo fratello, che è una cosa impossibile. Digli che ti scandalizzeresti terribilmente se mi vedessi comportarmi così. Non è forse vero?» «Oh no, affatto, ma se pensi che sia sbagliato, farai meglio a cambiare cavaliere.» «Ecco!» gridò Isabella. «Sentite cosa dice vostra sorella? Ma tanto a voi non ve ne importa nulla. Bene, ricordate che non sarà colpa mia se metteremo in agitazione tutte le vecchie signore di Bath. Vieni, Catherine, carissima, per amor del cielo, stammi vicino.» E se ne andarono di nuovo verso il punto dove avevano ballato prima. John Thorpe nel frattempo si era allontanato e Catherine, che desiderava dare al signor Tilney l'opportunità di ripetere la piacevole richiesta che già una volta l'aveva lusingata, si fece strada verso la signora Allen e la signora Thorpe il più velocemente possibile nella speranza di trovarlo ancora con loro. E fu solo quando la speranza si rivelò vana che si rese conto di essere stata molto irragionevole. «Bene, mia cara», disse la signora Thorpe, impaziente di sentire le lodi di suo figlio. «Spero che tu sia soddisfatta del tuo cavaliere.» «Oh, è molto, molto soddisfatta, signora.» «Oh, ne sono contenta. John ha un tale fascino, non è vero?» «Hai visto il signor Tilney, mia cara?» disse la signora Allen. No, dov'è? Era con noi proprio un attimo fa e ha detto che era così stanco di continuare a gironzolare che aveva deciso di andare a ballare, così ho pensato che forse avrebbe invitato te se ti avesse incontrato. Oh, dove può essere? Disse Catherine guardandosi intorno, ma non dovete cercarlo per molto, perché presto lo vide portare una signorina a ballare. Ah, ha trovato una dama. Come vorrei che avesse invitato te, disse la signora Allen. E dopo un breve silenzio aggiunse: è un giovanotto molto simpatico. Oh, è proprio vero, signora Allen, disse la signora Thorpe sorridendo compiaciuta. Devo dire, benché io sia sua madre, che non c'è al mondo un giovanotto più simpatico. Per molti, questa risposta sconclusionata avrebbe potuto essere del tutto incomprensibile, ma non stupì la signora Allen, che dopo un solo attimo di riflessione disse a Catherine in un bisbiglio: immagino che abbia pensato che parlavo del figlio. Catherine si sentiva delusa e infelice. Sembrava di essersi lasciata sfuggire l'unica cosa che le interessasse, e questa convinzione non la rendeva disposta a rispondere in modo molto benevolo quando John Thorpe le si avvicinò subito dopo e disse: bene, signorina Morland, suppongo che voi e io dovremo alzarci e fare di nuovo due salti insieme. Oh no, vi sono molto grata, ma le nostre due danze sono finite, e inoltre sono stanca e non voglio più danzare. Davvero? E allora passeggiamo e andiamo in cerca dei tipi più buffi. Venite con me, vi mostrerò i quattro tipi più ridicoli della sala, le mie sorelle minori e i loro cavalieri. È mezz'ora che rido di loro. Catherine rifiutò di nuovo l'offerta e finalmente egli se ne andò a ridere da solo delle proprie sorelle. Lei trovò molto noioso il resto della serata. Il signor Tilney, per scortare la sua dama, dovette allontanarsi dal loro gruppo al momento del tè. La signorina Tilney, che pure sedeva con loro, non si trovò vicino a Catherine, e James e Isabella erano tanto presi dalla loro conversazione che quest'ultima non ebbe tempo di concedere all'amica che un sorriso e una leggera stretta di mano e un "Carissima Catherine!"